Benvenuti, bentornati, carissimi amici e carissime amiche di Radio Cage. Testa Croce Show, l'ultima, la fine dei tempi. Esatto, decisamente. No, la fine dei tempi, abbiamo ancora un po' di tempo, appunto, no? Insomma, abbiamo quest'oretta e poi, no, e poi giunge il giudizio finale. No, sei mal informato, sì. I Maya l'hanno detto, manca qualche mese. Ma quindi... I Maya non parlavano, si lo sanno tutti. Non si era ancora sviluppato l'organo vocale. Questo mi giunge nuova, lo dico io. Ci confermerà, secondo me, il nostro ospite. Il nostro ospite che è un ritornante, nel senso che torna. Buonasera. A volte tornano. È il primo e ultimo ospite della stagione. È incredibile. Sì, sì, sì, è vero, non è vero. Andare il discorso che dopo questa puntata non ci sarà, esatto, più niente. Esatto. Non solo, ma appunto, ricordiamo, nella prima puntata avevamo parlato di fine del mondo. Esatto. E questa puntata non parleremo di fine del mondo né dell'inizio. Non parleremo, giusto, di niente. No, parleremo di varie cose. Però di, così, del più del meno, come si fa al bar. Ma ci sarà anche la premiazione dell'ultimo, certo, concorso esistenziale. E quindi seguite. L'ultimo non a caso, anche beh, qui un po' tutto, una puntata tutto, molto millenarista, scatologica, anzi. Il nostro, bene, ospite Filippo Bernardi, che sì, ci metterà, anche, infatti, ci metterà anche a parte delle sue ultime ricerche. Sì, no? Diciamo, sì, sì, assolutamente. Ricordiamo l'inventore, ha inventato la macchina del tempo, fra le varie cose. Fra, giusto, le varie cose, ma, certo, molte altre. Anche, no, uno, beh, spremia, no, diciamo, elettrico. Diciamolo, diciamolo così. Cosa fai, Filippo? Di cosa ti occupi? È un filosofo. Sì, no, sì, sì, in realtà sono un filosofo, ma mi sono, diciamo, orientato verso l'antropologia e sto preparando una tesi monografica su Vittorio Lanternari, che, bene, è un antropologo italiano. Bene, ne parleremo. Senz'altro, vi ricordiamo i nostri contatti, sì, per scriverci in quest'ultima puntata: testacroceshow@gmail.com e testacroceshow il contatto Skype. Scriveteci in diretta, mandateci i vostri saluti, i vostri improperi, qualsiasi e cosa. Le domande. E le domande, rispondete. Giusto, rispondeteci, sì, perché sono gli ultimi momenti per rispondere. Sì. Vogliamo subito scaldarci con un po' di musica, di quella, sì, tosta. Sì, sì, sì, abbiamo perso troppo tempo, l'almanacco rimandiamo al blocco successivo. Esatto, al secondo blocco, e quindi ci ascoltiamo Farewell dei Camelot. Esatto, si comincia salutando. Start my journey now. Farewell, penso sia la, ciao, canzone con, no, più farewell della storia. Della storia della, sì, musica, sì, sì. Può darsi. Con meno parole, fra l'altro. È un ritornello che si viene ripetuto. Dicono solo anche farewell, nella strofa, vabbè, qualcosa, sì. No, vabbè, praticamente I must farewell, sì, vabbè. Comunque no, mi è piaciuta. Piacevole, tutto sommato, orecchiabile. Rilassante. Però, rilassante. Vabbè, ricordiamo, siamo qui con Filippo Bernardi, che è anche un pastafariano, fra parentesi. Per chi se fosse scordato. E già, ne quindi parlammo appunto nella terza puntata. Vogliamo dire subito, diciamo, cosa è successo subito a Nico Alm. Ah, intanto a Nico Alm ne avevamo parlato nella puntata con Filippo. Con Filippo, sì. Praticamente è un viennese che si è battuto per cercare di far accettare nella sua patente di guida una foto di lui con lo scolafasta in testa, motivandola giustamente, no? Giustamente, perché è una, d'altra parte è un copricapo religioso. Certo, le foto con la papalina sono consentite, per esempio, per gli ebrei, insomma, non c'è nulla di strano, un copricapo. Turbante per i Sikh. Sì, assolutamente. E dopo 3 anni la richiesta finalmente è stata accettata, era già nell'aria, comunque insomma è una notizia positiva per tutti i pastafariani, direi. Certo. E invece c'è una notizia negativa per i pastafariani, perché da oltre un mese è scomparso, tuttora non si sa dove sia finito, Michele Radicchi, pisano di 29 anni, studente di medicina presso l'Università di Pisa, appunto, che è scomparso l'8 aprile. Ricordiamo Radicchi perché ne avevamo già parlato anche di questo, se non sbaglio, di un episodio in cui lui si era gettato nell'Arno per recuperare lo scolapasta. È lui? È lui, è lui. con la pasta che le era caduto mentre passeggiava sul ponte di mezzo. È un sacrilegio perderlo. Esatto, e era stato criticato perché si era buttato per recuperare uno scolapasta rischiando la vita. La domanda era, sarebbe stato giusto buttarsi per recuperare un crucifisso, anche se uno sì, è credente, esatto, diciamo, era un po' sproporzionato, sì, sì. Forse. Sì, anche secondo me, non so cosa ne pensi tu, so che la tua religione ti colgo nel no, vivo. No, ma gli scolapasta possono essere sostituiti, secondo me, ecco, non ecco. È un po' esagerato. Anche secondo me, però ricordiamo che vanno a fondo in quanto sono bucati, quindi bisogna agire subito. No, però vabbè, scherzi a parte, è veramente scomparso questo giovane dopo insomma dall'8 aprile e appunto è venuto fuori dopo che era pastafariano, se ne è parlato ancora, quindi si è fatto anche qualche collegamento un po' a sproposito, sarà scomparso. Punizione per quello, divina. Ci saranno collegamenti con la sua chiesa, insomma cose un po' stupide da notiziole, però comunque questo è andato di fatto. È, sì sì, ma infatti ci sono appelli da parte di tutti i pastafariani, sì, per cercarlo, certo. Insomma si stanno mobilitando molto, insomma. Sì sì, è vero, è vero. C'è solidarietà, vabbè, nella chiesa. Va bene, ci auguriamo anche noi che Michele venga, cioè o no, che venga ritrovato, se vuole essere ritrovato, sì. Certo, no, giusto, altrimenti no, mi sembra. Perché alla fine uno sembra... può anche volersi levare un po' da... È vero, soprattutto se sei pastafariano. No, non è vero. No, no. Andiamo con l'almanacco. L'almanacco di Radio Cage, sì. Allora abbiamo il jingle di Guillaume de Machaut, esatto, la chanson baladée. Eccolo che sta salendo i fumi di queste note. Allora oggi celebriamo 24 maggio San Donaziano, San Gennadio di Astorga, San Manachen di Antiochia, San Rogaziano, San Servulo, San Simeone Stirita il Giovane, San Zoello, Santa Amalia e Santa Giovanna moglie di Ciuza. Ora questo Ciuza deve essere terribile perché l'hanno fatta santa, quindi no, solo certo, perché era moglie di Ciuza. La citano in questo modo. Sì, sì, di solito non succede mai. Ma forse esatto, quindi è quello che sì, l'ha portata alla santità. Va bene. Va bene, ricordiamo la scomparsa nel 1543 di Nicola Copernico, astronomo, e nel 2010 di Paul Gray, bassista degli Slipknot. Poi non un'altra, ma me la riserva dopo, è legata a un'altra cosa, una cosa che a un'altra cosa, dire, d'accordo. Diciamo. Allora, invece sarebbe stato il compleanno di Edoardo De Filippo, sì, e di Iosif Brodsky, grandissimo poeta russo. Ed è il compleanno di Archie Shepp e Bob Dylan, sono due musicisti, uno nel jazz e l'altro nel folk, cantautoriale, insomma, musica sì, anche, ad ampio spettro. Anche il compleanno di Michael Jackson, il prete irlandese, no, non si tratta di no, infatti, un omonimo. Però... un prete irlandese che... sì, no, nulla. Ah no, è un prete irlandese. Sì. Ma perché è noto? Beh, è noto perché è citato nella lista dei compleanni. Di oggi. Forse Filippo Bernardi magari avrà fatto secondo qualche me disco è noto... di fit rock o qualcosa del sì, genere. Perché no? Semplicemente è noto in quanto anonimo di Michael Jackson. Può darsi. E poi anche il compleanno di John C. Reilly, l'attore di Chicago, premio Oscar per Chicago se non sbaglio, e anche del più recente Carnage di Polanski. E poi di Ben Yatzi Croshaw, che creatore di videogiochi e critico, sempre nello stesso campo. Bene, ne hai altri? Oggi è la Madonna Ausiliatrice. Perché cosa si celebra oggi? Perché ci aiuta, no? Esatto, proprio così. Auxilium Christianorum è il titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo, e così viene invocata anche nelle litanie a lei dedicate. Questo è da un sito di credenti, ovviamente. Sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e soccorritrice della Madonna per chi la invoca. A lei fummo affidati come figli da Gesù sulla croce, eccetera, eccetera. Ma la grande occasione dell'utilizzo ufficiale del titolo Auxilium Christianorum si ebbe con l'invocazione del grande Papa Mariano e Domenicano San Pio V nel 500, che le affidò le armate e i destini dell'Occidente e della cristianità, minacciati da secoli dai turchi arrivati fino a Vienna, e che nella grande battaglia navale di Lepanto 1571 affrontarono e vinsero la flotta musulmana. Il Papa istituì per questa gloriosa e definitiva vittoria la festa del Santo Rosario, ma la riconoscente invocazione alla celeste protettrice come Auxilium Christianorum non sembra dovesse attribuire direttamente al Papa, ma ai reduci vittoriosi che, ritornando dalla battaglia, passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. Il grido di gioia del popolo cristiano si perpetuò in questa invocazione. Il Senato veneziano fece scrivere sotto il grande quadro commemorativo della battaglia di Lepanto nel Palazzo Ducale: né potenza, né armi, né condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma Maria del Rosario. Ecco, quindi una versione guerriera, guerriesca della Madonna. Vabbè, sì, che c'è di strano? Non è una cosa che confligge con la religione, no? Beh, non lo so, questo lo lasciamo dire ai... Appunto, dico, questo lo lasciamo dire ai religiosi. Mi limito a rilevare appunto una Madonna in una veste insolita, comunque, no? Invece della solita madre tenera, no? Amorosa, c'è una Madonna che aiuta proprio i guerrieri contro gli infedeli, proprio a distruggere, a squartare gli infedeli. Tra l'altro è in programma un film sulla vita della giovane Madonna, fra breve uscirà nelle sale, credo il prossimo anno. Ah, davvero? Sì, sì, non ne so di più, però ho sentito dire. E fra l'altro fa il paio con quello su invece il giovane Gesù Cristo, da un libro di Anne Rice, che io sapevo si occupasse di vampiri solitamente, invece pare abbia scritto. Non credo sia un'omonima, penso sia proprio lei. Un libro si titola Lord Christ, e, insomma, The Young Years, se non sbaglio. Comunque un Cristo giovane. Sarà una versione horror. Ma non credo, guarda. No, Cristo non vampiro mi ha dato questa idea, però chi lo sa. Beh, no, sembra un po' troppo. Non lo so, cioè, appunto. Se ne può più di vampiri, veramente. Cioè, giusto no, per quello. No, no, mi stupirebbe. Vabbè, in effetti. Cristo vampiro, però, sarebbe interessante. Sarebbe molto interessante. Simpatico. Rivoluzionario, sì. Il sangue di Cristo. Ecco, vedrebbe tutto un altro significato. Esatto. Qui facciamo una brutta fine. Verremo scomunicati come... Io sono già scomunicato. Quindi, sì? Ma ufficialmente? Ufficialmente. L'hai richiesta? Mi sono sbattezzato, e lo sbattezzo comporta la scomunica. Vabbè, ma non automaticamente. Sì, sì. Perché non ti scoprono, stai zitto. No, automaticamente, zitto, lette sentenze. Okay, quindi vabbè. Come se scomunicato, come scomunicato era stato Williamson, il prete della fraternità sacerdotale di San Pio X, che era stato consacrato a suo tempo dalle Febvre, non so se ti ricordi, il vescovo controverso. Sì, sì, vabbè, Williamson stesso è molto controverso, negazionista dell'olocausto, però pare che nell'agenda del Vaticano ci sia proprio una riammissione di questo gruppo della fraternità sacerdotale di San Pio X, e anzi sia tra le priorità, perché Lombardi, portavoce del Papa, ha detto: la priorità di quest'anno è concludere con successo il dialogo con la confraternita di Pio X e superare questo doloroso strappo. Quindi, insomma, una delle cose più importanti è questa, insomma, contenti per loro. Mi sembra una cosa, insomma, decisiva, in effetti, per il mondo intero, riammettere questi quattro vescovi, questi quattro è vescovi della comunità. Giusto che faccia notizia, senz'altro. Sì, sì, sì, sì. Mi sembra importante, insomma, una missione di pace. Allora, ci prendiamo un'altra pausa musicale? Che ma dici, perché Gab? No, perché no? E allora, guarda, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che appunto presento con ricordando il suo autore, che moriva appunto quest'oggi nel 1974. Stiamo parlando di Duke Ellington, il grandissimo bluesman, jazzman, e questo pezzo è stato fatto insieme a Armstrong, e si intitola Duke's Place, dall'album Recording Together for the First Time, e ce l'ascoltiamo. Due giganti. Eh sì. Baby, take me down to Duke's place. Wireless box in town is Duke's place. Well, down I said to Duke's place. Duke's Place. Duke's Place, grandissimo pezzo. Duke, penso l'abbiano registrato lì. No, scherzo. No, però comunque poteva essere. Ma guarda, non è escluso, se non sbaglio registrava anche in casa. Sì, anche una cosa con Ella Fitzgerald, se non erro. Però non vorrei dire castronerie, semmai mi correggeranno gli ascoltatori. Ecco. Poi se ricordiamo i contatti, testacroceshow@gmail.com e lo Skype testacroceshow per bacchettarci in diretta. Esatto, bacchettateci, fateci domande, dateci risposte, insomma, fatevi domande domande e datevi risposte. Sì. Insomma, non siamo qui ad ascoltarvi. È una terza alternativa, non c'è, ma farvi delle state risposte zitti, e darvi delle domande. Ecco, per esempio. Ma no, quello no, devono scriverci. Facciamo parlare invece il nostro ospite Filippo ancora. Ecco, sì, che è qui apposta per dire castronerie con noi. Infatti, appunto. Che è un po' quello che scriverò nella mia tesi. Castronerie. No, allora, invece Filippo è un filosofo che si occupa di antropologia religiosa. E di cosa ti stai occupando adesso? Antropologia nello specifico? Antropologia religiosa, che tra l'altro è stata creata in Italia da Vittorio Lanternari. No, come avevo accennato, sto facendo una tesi monografica su questo antropologo, che ha una produzione vastissima, essendo vissuto 92 anni, ha scritto dagli anni 50 fino al 2010, quindi... È un lavoro non è noto invece, strano. No, in realtà è più noto all'estero che in Italia. Come molte cose. Come molte cose, ma è una cosa positiva, perché di solito in Italia si tende a chiuderci su noi stessi e a fare riflessioni anche di poco respiro internazionale. No, diciamo è più noto per aver fatto questo libro sui movimenti religiosi. Poi i suoi studi hanno proseguito cambiando anche un po' argomento, ho analizzato il rapporto tra psicologia dal punto di vista marxista. Sì, perché sì, il libro si chiama Movimenti religiosi di libertà e salvezza dei popoli oppressi, diciamo che è un titolo che spiega abbastanza. C'è un accenno. Beh, diciamo che riprende un po' i lavori del suo amico De Martino, del suo maestro Pettazzoni. Pettazzoni è stato un po' il maestro di tutti in Italia. Sì, un po' il maestro di tutti in Italia, perché è quello che ha fondato la scuola laica. E quindi cosa argomenterai su Lanternari? Qualcosa in generale? Sì, farò un po' un'analisi delle cose in generale, cercando poi di far vedere le cose più attuali, come le riflessioni sull'ecologia. Il suo libro Ecoantropologia, uscito nel 2003. Ah, recentissimo. Recentissimo. E secondo me le cose più interessanti sono appunto quelle sui movimenti religiosi e sul significato politico che hanno, la preparazione poi alle rivoluzioni che hanno avuto ad esempio in Africa o da altre parti del mondo, come anche tra gli indiani d'America, e poi i rapporti tra la psicologia e l'antropologia, anche questa è una cosa molto interessante. Quindi, l'etnopsichiatria, etnopsichiatria. Ah, quindi non è una, cioè è un approccio cognitivo alla religione? È un approccio cognitivo alla religione, esattamente. Cioè, proprio una riflessione su... Ma anche fatta proprio tramite psichiatri e dottori analizzavano proprio la possessione, la trance, vedere cosa ci fosse. È un argomento veramente scontante. Analizzare la trance è il sogno di molti, in effetti. Non il mio, ci tengo a precisare. Vabbè, questa la sorvoliamo. No, perché è giusto anche... Vabbè, sei diventato improvvisamente... infatti, appunto. Quindi tu... Analizzi. Non analizzo. Analizzo il fenomeno. Ecco. Il fenomeno. Diventare il premio della sorpresa del concorso di sensazione. Da un punto di vista esterno, lontano, capito? Per avere uno sguardo insieme dello stretto. Certo. E quindi... Ma invece, appunto, ci dicevi fuori onda qualche anticipazione dalla tua ricerca. Secondo me la cosa che vi può interessare è il discorso della politica della Chiesa, soprattutto in relazione a questi movimenti religiosi. Quali? Facciamo un esempio. Ecco. In Africa, a causa del colonialismo, la società è cambiata e il modo di espressione della società africana è la religione, e quindi i primi moti rivoluzionari sono proprio nati attraverso questi movimenti religiosi, che poi dopo la decolonizzazione si sono istituzionalizzati, e inizialmente la Chiesa non li accettava perché comunque erano dei sincretismi, sono delle cose anche curiose e divertenti. Ad esempio, un movimento in Belgio che venerava anche i nazisti, in quanto invasero il Belgio e i coloni se ne dovettero andare dal Congo belga, e questi per loro erano, avevano avuto un ruolo fondamentale, durato pochi anni in realtà, perché immagino. Poi sono ritornati, quindi e cose del genere, ma diciamo che la Chiesa tendenzialmente ha avuto sempre questa... invece poi ha cambiato atteggiamento. Sì, ma è storicamente così per tutte le religioni. Sì. Per tutte, però, le religioni, cioè, etniche in cui... sì. È al 99% della Chiesa cristiano-cattolica poi alla fine. Sì, no? Assolutamente, ma questi arrivavano, quindi... i coloni arrivavano lì, arrivavano anche le missioni e questi reinterpretavano, certo, certo, le cose. Inizialmente non erano accettati anche per un discorso appunto teologico, soltanto che poi l'avvento dell'Islam, l'avvento del protestantesimo, la concorrenza, la concorrenza e li ha portati a accettare. Ma questo succede, si può vedere anche in Italia, cioè abbiamo un sacco di feste pagane che sono diventate, sì, certo, sì, certo. Poi finché lo puoi combattere lo combatti poi, esatto, meglio, esatto, esatto. Ma lo diceva persino Sant'Agostino, questa cosa qui. Sì, sì, sì. Sant'Agostino ne ha dette tante, ne ha dette tante. Veramente, sì, tante. Diceva a proposito, sì, della festa di San Giovanni, che è una festa sarda, che io non so nemmeno se sia ancora in uso. Se c'è qualche ascoltatore sardo ce lo può far di sapere. Che si tratterebbe? Ma è una festa relativa a un culto agrario della primavera, alla rinascita, quindi ciclo fine rinascita. Sembra una degna celebrazione molto più di tante altre, sì, in realtà, sì, anche, sì, di, anche di Stato, se devo dire la verità. Va bene, direi che facciamo un'altra, sì, pausettina, facciamo un'altra, musicale. Un altro stacco musicale prima della premiazione. Bene, bene, cosa ci ascoltiamo? Allora ci ascoltiamo dei Black Moth, Super Rainbow, Twin of Myself, cioè gemello di me stesso. Questo è psichedelia pura. Eccoci qua. Ci risiamo. E allora, il nostro angelo custode Francesco, nonché ascoltatore, sì, uno dei più ci segnala che Anne Rice è da sempre una cristiana credente e anzi dice che ama la follia Cristo, che Cristo l'ha salvata e da tempo che voleva scrivere questo libro, da cui appunto verrà tratto il film che è in programma, che, a breve verrà, cominceranno le riprese. Bene. Staremo a vedere, staremo a vedere. No, evidentemente è sicuramente può curioso, può scrivere di vampiri anche, ah, certo. Non ci vedo in effetti troppo di strano. Vabbè, già che siamo in tema di cinema, di diciamo vampiri. No, però di cinema sì. Sta per uscire, anzi è già stato presentato al Festival di Cannes e quindi uscirà fra poco, il 12 ottobre, nelle sale, il film The Master. Non so come verrà tradotto in realtà. Speriamo che non sia tradotto. Ma forse ora ultimamente accade meno spesso. Sì, per fortuna, c'è però, questa tendenza. Non so, se no il maestro probabilmente di Paul Thomas Anderson, che ricordiamo per Magnolia, se non erro, e giusto? Il petroliere. E il petroliere, che appunto è un Filippo conosce bene, anzi dici qualcosa suo. Comunque, vabbè, brevemente, la notizia è che il film ha come personaggio principale un certo Lancaster Dodd, che fonda il suo movimento religioso negli anni 50 e molte cose sembrano coincidere con la storia di Ron Hubbard, fondatore di Scientology. Sì, ma giusto? Io penso sia proprio assolutamente ispirato. No, ma è dichiaratamente ispirato. No, in realtà le dichiarazioni ufficiali della dunque la Weinstein Company, che è quella che produce il film, dice che non c'è nessuna in realtà. Sì, va bene, io ho letto che è stato dichiarato, non so, invece, se hanno smentito, forse dalla cuore, non so, sì, regista, diciamo che viene fatto vedere, è stato fatto vedere privatamente già a Tom Cruise, che ricordiamo è un esponente, e è già in programma, c'è scritto sul sito che ci sarà una proiezione privata per John Travolta, un altro fervente credente. Sembra che queste siano proprio state queste proiezioni private state pianificate per decidere se effettivamente Scientology potrà rivedere o meno in Lancaster Hubbard, e quindi eventualmente offendersi oppure averci da ridire qualcosa. E lo decide già un'altra volta, e questo è interessante. Tom Cruise è un elemento importante, senz'altro, della, sì, ma è un amico del regista, fra l'altro. Ah, ecco. Quindi sì, perché infatti a Magnolia c'è Tom Cruise, sì, tra l'altro. No, comunque io non vedo regista migliore per per fare un film su Scientology, visto Il Petroliere, che parla anche di questi movimenti evangelici negli Stati Uniti. Ne parla male, tra l'altro, e quindi è bene. Però appunto sperare. Tom Cruise, che non penso sarà contentissimo. Ho letto che invece c'ha qualche reticenza, sì, però alla fine non ha detto, rivelato su cosa, ma ha detto: cioè, ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Ecco. Ha detto così, ha detto con la sua. Però vuol dire che insomma. Cioè... Ma staremo a vedere anche questo, no? Ma sì, che io non vedo l'ora, penso che me lo andrò a vedere. Sì, sì, sì, anch'io. Insieme a quello sui vampiri cristiani. A quello sì. su Gesù bambino, sì. Sì, Gesù giovane. Sì, tra l'altro c'era giusto, era quello. Sì. C'era anche qualcosa in South Park su Scientology, no? Sì, assolutamente, c'è una puntata su Scientology che tra l'altro è basata sulla puntata sui mormoni, cioè struttura è uguale. Ma è quella in cui Tom Cruise si nasconde nell'armadio, sì, vero? Si nasconde nell'armadio e sì, poi anche John Travolta in realtà si nasconde nell'armadio. Giusto. Benissimo. Oh, bello. Va bene, dunque andiamo... Ci sarebbe da fare puntate su puntate su Scientology, ma abbiamo siamo un concorso limitati. Abbiamo caldo, un concorso esatto che freme per essere espletato, premiato. Esatto. Si dice così, no. No, però, non fa niente. Va bene, tra l'altro proprio in diretta ci sta scrivendo Francesco le sue risposte proprio sul filo del rasoio, ma noi vediamo se andiamo più veloci di lui, così non ce la facciamo a dirle, dai. Dunque, ricordiamo intanto, anzi magari per prima cosa annunciamo il premio. Annunciamo il premio, assolutamente sì. Dunque, allora, il premio è l'ambitissima affiliazione al culto di Testa o Croce. Ebbene sì, perché finisce la trasmissione ma comincia il culto. Sì, cioè da qui in poi solo le stelle, insomma, come esatto, si dice. Esatto, no? Non si dice, nemmeno, no, il cielo è il limite, si dice, ma in realtà noi andremo anche oltre. Dalle stelle alle stalle, esatto. No, contrario. non ce la faccio. Vedo Filippo che... Spera di essere il primo fedele, esatto. Il vincitore sarà il primo fedele in assoluto. Ma l'affiliazione sarà gratuita, cioè, sarà in, gratuita in quanto premiato, no, premiato, certo, esatto, sarà quindi, gratuita e le non prossime solo, non sapremo, ma però sarà corporale anche. Assolutamente sì, certo. Perché l'affiliazione, come si dice, come si chiama? L'iniziazione è corporale nel culto di Testa o Croce. Beh sì, probabilmente sì. In cosa consiste? Ma è meglio, ma meglio lo scoprirà il vincitore. Se vuoi puoi rispondere, anzi risponderai, perché ti risponderai faremo per forza, le domande e magari vincerai tu e sarai iniziato qua subito nello studio. Ti inizieremo. Va bene. D'accordo, ma c'è anche Fede, secondo me, che è il nostro tecnico, che secondo me è desideroso di entrare a far parte del culto di Testa o Croce. No. Sì, vedo che scuote la testa, però da destra a sinistra di solito vuol dire no, vabbè, pazienza. D'accordo, cominciamo con la prima domanda. Qual è il vostro senso della vita? Sì. Ci ha risposto Valentina, che ci ha scritto una lunghissima risposta, di cui io traggo questo estratto. Diventa ciò che sei, disse Nietzsche. Sembra apparentemente un consiglio semplice, quasi scontato e banale, ma poi nella realtà è ben diverso. Diventare ciò che si è, senza farsi condizionare, plasmare, abbattere, demotivare nel corso della vita non è facile. Da bambini sappiamo cosa siamo e cosa vogliamo, perché il nostro pensiero è puro, non condizionato da paure e sensi di inadeguatezza. Poi, diventando grandi, aggiustiamo lungo il cammino il tiro, perché spesso gli eventi esterni ci condizionano a doverlo fare. È lì che entra in gioco il mio senso della vita: dimostrare a me stessa che nonostante tutto io sono ciò che voglio, non sono frutto degli eventi esterni, dell'ambiente dove sono nata, non sono il risultato di un fato ostile, io sono quello che ho voluto e saputo essere. Va bene, ne abbiamo un'altra, che è quella di Francesco, è appena scritta. La vita non ha un senso, ma solo una direzione. Bella, una risposta geometrica. Sì, sì, è euclidea. Anzi, forse no, era verso in realtà, però vabbè, il senso è lo stesso. Ok. Bene, dunque per me è ogni atto creativo, cioè qualcosa che produce qualcosa. Cioè il senso della vita è produrre qualcosa, okay, creare, sì. Ma io sono d'accordo con Francesco invece, con il nostro ascoltatore. Anche per me la vita non ha senso, ha solo una direzione. Va bene. E Filippo? La vita ha senso in comunità, proprio un discorso sociale, secondo me. Quindi un senso relazionale. Un senso relazionale. Bene, bene. Passiamo alla seconda allora. Dunque, il messaggio divino deve avere carattere eterno e immutabile, oppure essere aggiornato in base al luogo e al tempo? Bene, come risposta abbiamo quella di Francesco. Deve essere aggiornato di volta in volta a seconda del cambio dei costumi sociali e degli eri zodiacali. Che ridi, cosa? Tra un po' lasceremo l'era del pesce per quella dell'acquario, quindi il pesce sarà il simbolo cattivo. Questa è la risposta di Francesco. Poi vabbè, anche se non ha data direttamente, ma ricordo quella di Francesco Spaziosi, abbiamo parlato dell'argomento perché i Baha'i sappiamo che sono una religione che parla proprio della progressione dell'insegnamento, sì. Quindi la risposta è che deve essere adeguata al tempo, anche ma con uno zoccolo avevano... duro, però con uno zoccolo duro eterno. E c'erano i mormoni anche che avevano, sì. No, la rivelazione continua, sì. Diciamo individuale, specifica. Esatto. Sì, sì, sì. Filippo, che ci dice? Secondo me deve essere aggiornato, anzi è aggiornato, magari non dalla Chiesa Cattolica, però da altre cose. Vabbè, dai, il messaggio divino abbiamo detto. Vabbè, comunque. Dunque, per me invece deve essere eterno, dovrebbe limitarsi ai valori che non sono influenzati appunto dall'ambiente e dal tempo, quindi solo la porzione che può avere valore sempre, a prescindere dalle circostanze. Sì, anche per me il messaggio divino dovrebbe essere eterno e assoluto, però non credo nei messaggi eterni e assoluti, no. Cioè non credo nell'esistenza di una verità, cioè la verità è relativa, non assoluta. Non è vero. Quindi, secondo me sì. Ah, credi nell'esistenza di una verità? No, no, assolutamente. Ah, non è vero. Ma cosa? Mi stai confondendo, lo so. Mandiamo un brano musicale e poi continuiamo con le altre due domande. Allora, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che... merita una piccolissima presentazione. Allora, nell'estate del 1990 usciva un maxi singolo del gruppo Elio e le Storie Tese, che poi veniva però ritirato dal mercato a pochi giorni di distanza. E questo e anche la sua versione alternativa, che usciva pochi giorni dopo. Perché veniva ritirato? Perché c'era una richiesta di Testimoni di Geova che erano irritati dalla copertina e dall'incisione del titolo, che era il titolo è Svegliatevi, e la copertina prendeva in giro un po' la rivista dei Testimoni di Geova, e quindi venne ritirato. Poi la versione invece che conosciamo quasi tutti è quella del 1997, dall'album Del Meglio del Nostro Meglio, con un testo leggermente diverso, ma noi invece ci ascoltiamo proprio quella originale. Allora ragazzi, eccola qua. Che per eccola. La castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata, e vorrei essere stato chiaro. Rieccoci qua. Rieccoci con le altre due domande del concorso, sì, esistenziale. Eravamo in mezzo di una premiazione. Già. Bene, bene. Allora, abbiamo... Ma dilla tu questa. Terza domanda. Se un uomo mette un pulcino d'oca in una bottiglia e lo nutre finché non è cresciuto, come potrà far uscire l'oca senza ucciderlo, senza rompere la bottiglia? E su questo do subito la parola a Filippo. Ma non può. Ok. Vabbè. Invece Francesco ha una bellissima idea. Prima metto una nave nella bottiglia e poi quando cresce uscirà da sé con un brevetto nautico il vento in poppa. Applausi per Francesco. Cioè. Poi c'è la risposta di Francesco Spaziosi dei Baha'i, sì. E speriamo che il collo della bottiglia sia bello largo, quindi non si pone il problema praticamente. Ok. E poi vabbè, dunque posso dire la mia, semplice, si aspetta che muoia di morte naturale. Poi eventualmente si mette a bagnomaria per due orette e buon appetito a tutti. Ah, ok, d'accordo. No, a quel punto poi, essendo non avendola tu uccisa, puoi tirarla fuori, certo, come certo, vuoi. Certo, no? Assolutamente. Ci fa una bella zuppetta, a versi, poi no, cos'è. Sì, anch'io dico che non può, però voglio leggervi l'episodio in cui il maestro Nansen dà la più celebre risposta, diciamo, dall'interno dello Zen a questo koan. Quella della nave, secondo me. Esatto, no, non è quella della nave. L'ufficiale Rico una volta chiese a Nansen di fargli luce sull'antico problema dell'oca nella bottiglia. Se un uomo mette un pulcino d'oca in una bottiglia e lo nutre finché non è cresciuto, come potrà far uscire l'oca senza ucciderla o senza rompere la bottiglia? Nansen batté le mani con forza e urlò: Rico! Sì, maestro, rispose Lico sobbalzando per la sorpresa. Vedi, disse Nansen, l'oca è fuori. Giusto, giusto. Questo è fantastico. Infatti, questo proprio è il fulcro del pensiero buddista. Poi, alla fine, che dici? Dentro è come. Sì, sì, sì, che il bicchiere in realtà non è vuoto, ma c'è un'oca. Ma c'è un'oca. Questo è il fulcro del pensiero buddista. Pate d'oca. Passiamo avanti. Va, andiamo che, avanti. Che e, dunque, l'ultima domanda: l'universo è finito? E se sì, che c'è al suo confine? Sentiamo Filippo. Questa è tosta, Un casello con il pedaggio. Un casello con il pedaggio, che è, se non sbaglio, anche la risposta che aveva dato Francesco Spaziosi. Quindi se dovrei contattarlo. Probabilmente allora è quello, cioè quello. E invece c'è la risposta di Francesco, che c'entra col pedaggio in un certo senso. C'è un ristorante, cioè qualcuno di voi ricorderà come la risposta data nel film Guida Galattica per Autostoppisti. Sì, cioè, ma libro, ce l'aveva detta in effetti già anche tempo fa. Dice quello, oppure in realtà l'universo è un mega pianeta che fa parte di un universo ancora più grande, che in realtà è un mega mega pianeta che fa parte di un altro super mega universo. Finché non troviamo un barattolo di olive in salamoia, che sono i vari supermari. Esatto. Immaginavo. E poi, dunque, la mia risposta è questa: uscendo da destra si rientra a sinistra come in Pac-Man. Come nei videogiochi, vero? Esatto, l'avevi detto Pac-Man, nella mi piacciono moltissime delle risposte che avete dato, sinceramente. E la tua? Semplicemente lo spazio e il tempo sono coordinate mentali, proprio mentali dell'uomo, del cervello. Quindi è finito o no? Per te non è finito? Non è neanche diciamo iniziato. Diciamo che queste sono domande che hanno senso per la mente, ma non in senso oggettivo. Quindi, Quindi sono relativi anche. Vabbè, sei troppo politicamente corretto. Forse sì. Quest'oggi se lo dicono. Non ci siamo, però. Ci siamo. Ci siamo. È arrivata la rivelazione. È arrivata. Sì. Veramente? La tua non è ancora arrivata. Allora, meditiamoci ancora un pochino. Facciamo un ultimo stacco musicale. Questa puntata. Per par condicio, visto che ho messo un pezzo un po' irridente, mettiamo un pezzo invece di Christian Music, che di solito sono delle cose oscene. E infatti, anche questo. è un pezzo di un gruppo internazionale, Gen Rosso, da un album Zenith del 2005. E si titola Cerco la tua voce. Immaginate di chi è la voce. Forse ve lo immaginate. Non voglio immaginare. Dove sei? Perché non rispondi? Vieni qui. Dove ti nascondi? Traccia fili d'oro la mia storia. E intessi là d'eternità. Questa bellissima canzone, l'arrangiamento non è male, secondo me l'ho scelta appositamente con cura, tra le migliori c'è anche un Christian metal che non è niente male a tratti, comunque, sì, no? a tratti ma anche molto respinti, secondo me funziona come in South Park, che se fai una bella canzone vendi tante copie, vinci il disco di Mirra. Potevano essere i premi, fra l'altro, oro, incenso e mirra. Potevano essere, cioè, erano oro, magari col cavolo, incenso e mirra, sì. Ma non sono questi. Appunto, ricordiamo, è all'iniziazione al culto di Testa o Croce. E passiamo alla rivelazione dei finalisti. Ancora esatto, la rivelazione divina mi ha detto che Filippo, il nostro ospite, è uno dei finalisti. Bene, mentre il metodo matita su un foglio con dei nomi scritti mi ha rivelato che l'altro finalista è Francesco, il nostro ascoltatore di Livorno. Benissimo, allora passiamo la parola e la moneta a Fede, che ha il ruolo quasi totemico ormai di dare questo premio, di assegnare la moneta del CE da 3 pesos, e quella che non si vede mai cosa esce, comunque testa è Francesco e croce è Filippo. Ok, senza offesa. Cos'è croce? Quindi abbiamo. È croce, giusto? Sì. È croce. È ufficiale. Sì, è ufficiale. È croce. Abbiamo il nostro vincitore con noi. No, e quindi li toccherà l'iniziazione in diretta. Però ora che usciamo, Come ti senti a essere il primo fedele di Croce? Sono emozionato, mi viene quasi da piangere. Ma fai pure, facciamo. Sai quanti ascolti? Fallo in diretta. In diretta. Va bene, dai, è andata così. È andata, assolutamente è andata. E volge quasi al termine anche la puntata, direi di fare un bel recap. Sì, un bel recap. Sì, sì, senz'altro. Dunque, intanto direi organizziamo così, diciamo brevemente l'argomento delle puntate e poi eventuali ospiti, ok? Io ho solo gli ospiti, quindi bene, gli argomenti allora, li lascio dire. Allora, ne dirò io. Dunque, allora, la prima puntata abbiamo parlato di relativismo o aspe e fine del mondo. Nella seconda di San Malachia, I Am Movement e Halloween. Nella terza di Pastafarianesimo con il nostro ospite, anche di oggi, Filippo Bernardi. Nella quarta di Superstizione e Bretarianesimo. Nella quinta di Thanksgiving e Raeliani. Nella sesta di New Atheism, Cerimonie Laiche, con Valentina Calvelli e Davide Costanzo dell'UAR. Sì, che ringraziamo tantissimo. Poi nella settima dello spettacolo di Padre Pio, Una storia falsa, con Filippo Scarparo e Francesco Biondi, autore del testo. L'ottava c'è stata la premiazione del concorso Vinci il Valhalla, un po' di notiziole, nessun argomento grosso. Nella nona il copimismo e sempre vabbè, notizie ovviamente. La decimo sulla chiesa di Elvis. Undicesimo i culti del cargo con il frontman degli Indovina Lorenzo Cominelli. Esatto. Nella dodicesima di Itag, ovvero trapanazione del cranio. Nella tredicesima della setta induista Agori. Nel quattordicesimo sempre lo spettacolo ancora di Padre dello spettacolo Pio, sì, con l'autore Francesco Biondi e con l'attore Marco Bruciati. Sì, la quindicesima di Christian Science con Cristina Kortsen. Nella sedicesima di Hare Krishna con Mauro Bombieri Parabhakti. Sì, il presidente di Villa Vrindavana. Nella diciassettesima di Cosmic o Universe People, Ivo Benda. E la diciottesima di Celtismo con il fondatore del conciliabolo celtico toscano Maurizio Pucci. Nella diciannovesima Chiesa del Subgenio con Rosetta Stone, sacerdotessa reverendissima. Sì. E nella ventesima di Obod e Druidismo. Sì, con Stefano Alessi, che appunto è un druido toscano. E dunque poi abbiamo avuto poi ricordiamo brevemente gli altri ospiti, sfugge, gli altri ospiti. Jacopo Davassi, SEO, Search Engine Optimizer, ma anche agnostico. Sì. Massimiliano Quartarone della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Francesco Spaziosi della Comunità Bahai di Livorno. Vi ringraziamo veramente tutti quanti, sì, di essere stati con noi, anche gli ascoltatori. Grazie a Filippo Grazie Bernardi. A voi. Anche i non udenti che ci hanno ascoltato. Sì. No, ricordiamo che tutte le puntate poi saranno sul blog, sì, no? Sì, sì, lo saranno. Podcast. Prima o poi lo saranno. testofreshow.blogspot.com. Sì. Lì posteremo anche magari delle riflessioni finali, non so, qualcosa. Io penso di sì, comunque. io penso che le posterà. Comunque, appunto, continuate a seguire il blog e i prossimi podcast. Ringraziamo Fede, che sì, è stato con noi in tutte queste straordinarie in questa bella puntate. Avventura e avete sentito la sua, sì, voce solo quando c'era qualcosa che non andava, ma purtroppo è un po' reticente, è un po' il ruolo del si mantiene il suo ruolo istituzionale come il nostro napoletano, sì, sobrio retta no, non è molto quasi uguale, dice Fede. Benissimo, allora noi vi ringraziamo ancora di essere giusto, stati con noi. Francesco, ma ripartirà, torneremo, non si sa. Chi vivrà vedrà, l'anno prossimo, esatto, può darsi che qualcosa ci sarà. Però secondo me si... l'estate porterà consiglio, porterà come consiglio, dice il famoso, sì, proverbio, non ricordate quello, sì, dei nostri nonni, sì. Ecco. Ora ci siamo, siamo. No, diciamo brevemente invece le prossime date dello, scusa, spettacolo, che ne dici? Almeno quelle, giusto, diciamo, giusto. Lo spettacolo Padre Pio, Una storia falsa, sta preparando il tour. Ah sì, esatto. E ora Gabbo ci dirà le prossime date. Sono il 30 maggio al Teatro Cometa Off di Roma, il 16 giugno al Teatro C di Livorno e il 27 luglio al Festival Beer Campus a Rosignano. Ecco. E lì forse ci sarò anch'io. Per il campus, per Rosignano. Ah, ok. Amo la Solvay. Benissimo, allora grazie ancora a tutti. ci salutiamo qui e dopo di noi ci rivediamo again. Ah sì, con avevamo notato un ospite e quindi sì, ricordiamo che c'ha sempre puntate con appisi musicali secondo me sarete molto molto contenti di sapere chi è l'ospite. Io lo conosco ma non vi voglio rivelare nulla. Benissimo, ciao a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao. Sky.